L'agenda della settimana teatrale. Con l'attore Francesco Bonomo per parlare dello spettacolo Il Maestro e Margherita. A Roma, al Teatro Eliseo, dal 22 gennaio al 3 febbraio 2019. Francesco, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Ci racconti un po', ci descrivi questo spettacolo? Sì, beh, lo spettacolo è complicato da descrivere tanto quanto il romanzo, nel senso che è un romanzo veramente che rappresenta molti mondi, molte situazioni, molte storie parallele, così come lo spettacolo. Lo spettacolo e l'adattamento di Letizia Russo cerca di riportare un po', come dire, appunto questo multiverso, questa polifonia di personaggi e di ambienti, chiaramente nella riduzione teatrale, quindi 140 personaggi del romanzo sono ridotti a una ventina, siamo una compagnia di 15 attori, molti attori fanno doppi ruoli, io personalmente faccio il maestro e Ponzio Pilato. In questo caso, a differenza di altri ruoli, questa è una scelta proprio di scrittura teatrale fatta dalla Russo, di far, come dire, coincidere, di riunire in uno stesso attore i due personaggi, proprio perché sono un po' l'uno lo specchio dell'altro, ovvero, come tutti più o meno ci ricordiamo, ricordandoci il romanzo, il Ponzio Pilato è il protagonista del romanzo che scrive il maestro. Romanzo che è, diciamo così, il simulacro dell'amore tra il maestro e Margherita. E in questa società moscovita in cui c'è questa storia, diciamo così, pseudo borghese di questo romanziere che tenta di pubblicare un romanzo, non ci riesce e vive la sua storia d'amore con Margherita proprio attraverso il romanzo, per cui nel momento in cui questo romanzo viene bruciato dal maestro, la loro storia d'amore finisce, e in questo contesto, appunto, della Mosca sovietica dei primi del Novecento, arriva il diavolo a, come dire, muovere le carte in tavola, muovere gli addetti dell'equazione, per cui incontrerà Margherita, incontrerà la società civile moscovita, portando un po' con sé questo l'assioma del fatto che Dio esiste, il diavolo esiste, insomma un po' il mistero che viene invece rinnegato da quella società appunto atea e razionalista che era quella sovietica. Mm-hmm. Ecco, questo è proprio una sintesi estrema, sì, un po' della vicenda e della pièce. Procediamo per gradi, dal romanzo di Bulgakov, cosa apprezzi della scrittura? Apprezzo un doppio aspetto, che è quello molto concreto e tipicamente russo, quindi diciamo così quasi di creare situazioni di commedia nel romanzo, dialogate, poi lui era comunque anche un drammaturgo, lavorava al teatro d'arte di Stanislavski, quindi come dire mette nel romanzo delle situazioni molto teatrali e molto concrete per l'appunto. Dall'altra parte invece questa capacità di creare mondi fantastici, perché il romanzo è un romanzo ricco di avvenimenti, come dire, straordinari, appunto. La festa di Satana, Satana che uccide Maestro e Margherita e poi li riporta in vita, cioè gli fa assaggiare la morte. Questo aspetto nel romanzo è veramente fantastico, tipo volare, viaggiare in un universo di fantasia, ma che però riesce comunque a, come dire, riportare dei portati politici rispetto appunto alla critica del potere sovietico, quasi una critica appunto al sistema letterario, perché sappiamo che Bulgakov non riusciva ad essere preso in considerazione quanto lui voleva, era un po' ostracizzato dal sistema. Ecco, questo diciamo nel romanzo è una cosa che si legge tra le righe, che traspare, e nello stesso tempo, quindi c'è un aspetto razionale, no, nell'approccio al romanzo mentre lo leggi, e nello stesso tempo però c'è anche questa capacità di portarti per mano in un mondo fantastico, quasi in una fiaba, no? Sì, sì. Direi questo. Sì. Senti, rispetto all'adattamento di Letizia Russo. Chiaramente l'adattamento, come dicevo un po' prima, necessariamente doveva privilegiare alcune storie al posto di altre e doveva trovare, secondo me, cioè riuscita egregiamente sia l'edizione della regia di Andrea Baracco, doveva riuscire a trovare una sintesi per tutto quello che è proprio la parte del fantastico, cioè teste mozzate, sangue che scorre, streghe che volano e tutto questo, diciamo. Devo dire, tra le due, cioè tra regia e scrittura, si è riusciti a restituire in maniera anche molto semplice sul palcoscenico questa cosa qui. Letizia poi, devo dire, ha utilizzato un linguaggio bellissimo, proprio la parola, nonostante l'uso della parola molto bella, nonostante si allontani dalla scrittura di Bulgakov. Si allontani perché non traspone le battute per così come sono, ma le riscrive proprio, pur mantenendo quella qualità di cui dicevo prima, quindi una qualità di concretezza e allo stesso tempo di poesia. Sì. E il lavoro di questa compagnia, che dici? Un bellissimo lavoro, perché devo dire che nonostante ci siano dei ruoli e degli attori ovviamente più in evidenza, a partire da Michele Riondino che fa Volan il Diavolo, io il maestro Pilato, Federica Rosellini che fa la Margherita, devo dire che è uno spettacolo corale, assolutamente, perché è uno spettacolo in cui tutti lavoriamo per due, sia dentro che fuori la scena, proprio perché soprattutto nella prima parte. È una susseguirsi di scene rutilanti dove ci sono, se mi concedo il termine un po' strano per il teatro, però ci sono diversi effetti speciali che, come dire, sono il lavoro di tutti gli attori dentro e fuori, oltre che dei tecnici. È stato un bel lavoro. Abbiamo provato in Umbria, a Solomeo, in una situazione chiusa. Quindi diciamo fuori dal tran-tran delle grandi città e questo ha portato, come dire, a creare una bella compagnia, un gruppo coeso, siamo attori tutti, come dire, con la propria individualità, quindi con dei percorsi specifici e diversi tra di loro, però in questo lavoro a questa cosa ha portato una qualità invece che un problema. Sono già diverse le tappe che state facendo, mi parlavi comunque di un bilancio buono. Ottimo, devo dire, proprio per quello che dicevo prima, cioè stando nel chiuso di Solomeo, diciamo, e anche, come dire, per la difficoltà oggettiva che ha, come dire, una riduzione di questo genere, eravamo tutti abbastanza, come dire, con un grande punto interrogativo sull'esito. E invece devo dire che l'esito sin dall'inizio, quindi sin da quando abbiamo debuttato a settembre, a Solomeo è stato super favorevole. Il pubblico è contento, rimane comunque a voler vedere la fine della storia e per tutta la durata dello spettacolo di 3 ore, che insomma oggi non è cosa banale, e abbiamo sempre un grande successo. Non è uno spettacolo che ammicca al pubblico, nel senso non ci sono, diciamo così, costruzioni per cercare l'applauso, costruzioni per cercarne il favore, e quindi abbiamo, come dire, il riscontro proprio alla fine delle 3 ore con addirittura appunto acqua standing, devo dire, ogni tanto è successo. Senti, dopo Roma prosegue il suo cammino? No, Ah, cioè ok. sì, ma fa due date, ma giriamo da 5 novembre con quel piccolo debutto, come ti ho detto, piccolo, diciamo, preview a fine settembre, metà settembre, e dovrebbe riprendere l'anno prossimo. Roma, diciamo, sono le ultime due, poi abbiamo le ultime 2 settimane e poi abbiamo altre 2 date in un posto che adesso non me ne vorrai, me lo ricordo. E allora ricordiamo l'appuntamento romano al Teatro Eliseo del Maestro e Margherita.

Animali dal bar dal 15 al 20, Thanks for Vaselina dal 22 al 27. Presentiamoli tutti e tre. Partiamo dal primo? Partiamo dal primo, ma anche da un discorso generale su che vuoi, se si va su questa trilogia, perché sono appunto i 10 anni di Carrozzeria Orfeo e diverse città d'Italia, Milano, Roma, nelle Marche e anche a Genova lo festeggeremo con una trilogia dedicata. I tre spettacoli che in fondo sono anche legati tra loro, in modo involontario, però hanno formato come una sorta di trilogia, una trilogia degli ultimi, l'esplorazione dei tre mondi molto diversi tra loro, ma che hanno sempre a che fare col tema dei perdenti, degli ultimi. In Texo Vaselina è una tragicommedia familiare dove si affronta il tema della famiglia e delle relazioni disgregate. Animali da bar si parla sempre comunque di senza tetto, di persone affamate, affamate d'amore, affamate di cibo, affamate di vita, ma siamo dentro un bar e quindi c'è un lavoro proprio sull'esplorazione della società, di cosa significa essere parte della società. E in Cursus Clan invece siamo spostati sempre sul solco della tragicommedia, ma in un mondo quasi distopico, un mondo dove l'acqua non c'è più, è stata privatizzata e i nuovi poveri, che non sono solo extracomunitari ma anche italiani, vivono in queste enormi baraccopoli quasi come delle favelas brasiliane, quindi un po' una trilogia degli ultimi, ecco. Allora, a questo punto parliamo anche un po' della storia della compagnia. Ma guarda, noi siamo 10 anni fa, dalla volontà mia, di Massimiliano Setti e di Luisa Supino, di fare il nostro teatro, in fondo portare avanti la nostra visione. È un teatro, diciamo, come dire, fortemente popolare, nel senso più bello dal nostro punto di vista, più alto del termine. La nostra grande missione è portare pubblico a teatro e poter raccontare con la nostra sensibilità, con la nostra poetica, delle storie arrivabili e fruibili per tutte, a diversi livelli naturalmente, ma delle storie che possano creare comunità, creare comunione tra chi c'è sul palco e il pubblico. Quindi ci opponiamo in modo, direi, ferreo all'idea di sostanziale noia che molto teatro trasmette, o come un'operazione difficile o troppo intellettuale o troppo borghese o troppo per pochi o troppo di nicchia, e cerchiamo di lavorare appunto su un teatro che definiamo pop. Le nostre storie fanno molto ridere, fanno credo anche pensare, fanno emozionare, ed è per questo credo che è arrivata anche negli anni con tanto lavoro la fortuna di Carrozzeria Orfeo, che quest'anno comunque con questi tre spettacoli fa 120 repliche in tutta Italia. Mm-hmm. Spendiamo due parole in più anche su ogni singolo spettacolo, cominciando dal primo, cronologicamente come produzione, come nascita, Thanks for Vaselina. Sì, in Thanks for Vaselina siamo appunto, come dicevamo, all'interno di una tragicommedia familiare. C'è un grande pretesto, un McGuffin, si direbbe un innesco, che sono due ragazzi, Phil e Charlie, molto diversi tra loro, uno cinico e disilluso, l'altro più idealista e sognatore, che si sono messi in testa di invertire il normale andamento del mercato della droga, e visto che l'America, come al solito che porta democrazia in tutto il mondo, ha deciso di portare la sua democrazia anche in Messico e con i droni ha iniziato a bombardare tutte le piantagioni di marijuana, lasciando, come dice Charlie, i fratelli messicani senza marijuana, questi due ragazzi, a periferia qualunque, disagiata dell'Italia, decidono di invertire il mercato della droga e portare la droga loro dall'Italia al Messico. Naturalmente questo è il pretesto, poi in realtà in questo spettacolo emergono ferite familiari lontane, traumi, fatti di cronaca. È un lavoro sulla famiglia, perché poi il protagonista Phil ha una madre compulsiva, una ludopatica compulsiva per le slot machine. Dopo 20 anni di lontananza torna a casa il padre, che diventa un uomo, che troviamo un uomo molto cambiato, incontra sul loro cammino una ragazza obesa che si chiama Wanda, che diventerà parte integrante della famiglia. Ecco, Thanks for Vaselina, credo che il sottotitolo dica tutto, dedicato a tutti i familiari delle vittime e a tutte le vittime dei familiari, quindi dal macro al micro. Animali da bar? Animali da bar siamo appunto in un bar che per noi è un luogo di passaggio, non è né un interno né un esterno, perché nel bar entrano storie, leggende metropolitane, fatti personali, questi fatti vengono rielaborati, poi ritornano all'esterno, è quasi una sorta di purgatorio per noi il bar, e lo è anche dal punto di vista scenografico, come abbiamo deciso di allestire la scena. Abbiamo 5 personaggi più uno, perché uno non lo vediamo ma sentiamo solo la voce di Alessandro Haber, che interpreta questo vecchio arcigno razzista che vive autorecluso al piano superiore, mentre nel bar abbiamo 5 protagonisti, che sono Mirka, che sta affittando illegalmente il suo utero a una coppia di italiani, Colpo di Frusta, una delle due persone a cui sta affittando il suo utero, Swarovski, che è uno scrittore alcolizzato e cerca di scrivere il romanzo della sua vita, Sciacallo, che è un ragazzo zoppo, il bipolare, che ruba nelle case dei morti il giorno del loro funerale, e poi il personaggio che interpreto io, Milo Cerruti, che è un giovane imprenditore rampante che ce la vuole fare, ma gestisce un'azienda un po' particolare, perché è un'azienda di pompe funebri per animali di piccola taglia. Anche qui siamo in un mondo che potrebbe sembrare inizialmente estremo, esagerato, ma il mio modo di scrivere, di raccontare la realtà, è proprio cercare di partire da quasi da una realtà esaltata, una realtà maggiorata. I personaggi appaiono all'inizio veramente quasi come dei super personaggi, perché sono pieni di così tante cose, anche talvolta assurde, ma poi pian piano, durante la storia, il pubblico si accorge che, andando a togliere quello che resta dei personaggi, come quando prendi in un fiume con un setaccio tanta terra e poi in fondo restano solo piccole pagliuzze d'oro, quello che resta quando li setacci, questi personaggi, sono dei nodi umani, dei problemi personali che sono più reali del reale. E questo è in qualche modo ancora una riflessione sulla poetica. Nell'ultimo spettacolo, Couscous Clan, siamo, come si dice proprio all'inizio, Couscous Clan, due punti in un futuro imminente. Siamo in un mondo dove l'acqua è stata completamente privatizzata, dove i ricchi vivono all'interno di recinzioni sorvegliate da guardie armate e telecamere di sicurezza, mentre fuori da queste recinzioni, quasi come dei castelli e dei feudi medievali, vivono queste orde di senza tetto e di disperati ammassati dentro baraccopoli fatte di catapecchie, roulotte, scassate e lamiere. E noi ci concentriamo su una piccola comunità di senza tetto, formata da 3 fratelli che vivono in una roulotte, sono Caio, che è un ex prete che è stato cacciato dalla chiesa e scomunicato proprio perché si era opposto alla privatizzazione dell'acqua. Caio vive insieme al fratello Achille, che è sordomuto, e alla sorella Olga, che è una donna molto grossa, con un occhio solo, che ha perso per un'infezione appunto dovuta alla povertà. E nella roulotte di fianco loro vive invece questo turco musulmano che parla un italiano tutto suo, immigrato in Italia con la speranza di potercela fare, ma in questo mondo che abbiamo disegnato anche gli immigrati, così come gli italiani, non hanno nessuna speranza di farcela. E Mezzaluna lavora appunto col caporalato, per conto del caporalato viene sfruttato, in fondo seppellisce i rifiuti tossici che provengono dalla recinzione, e a questi 4 personaggi se ne aggiungono altri 2, che sono Aldo, che è un borghese che arriva appunto dalla recinzione, ma dopo un problema con la moglie, un divorzio, perde il figlio, perde la moglie, perde il lavoro e si ritrova a diventare parte di questa banda di senza tetto, e poi questa ragazza misteriosa di 25 anni, Nina, che una notte appare nuda nel campo, non si ricorda da dove viene, non si ricorda dove deve andare e deve ricostruire la sua storia. Bene. Anche qui in Couscous Clan abbiamo cercato con tutte le nostre forze di raccontare il mondo a partire dai referendum dell'acqua che sono stati anni fa, ma da quello che sta succedendo in California, quello che sta succedendo in Africa, nell'America Latina. Cioè, il problema dell'acqua è un problema, no, cosiddetto oro blu, è il problema che noi avremo, e stiamo cercando di raccontare come compagnia quali sono dei futuri possibili. In questo senso crediamo anche che il teatro possa diventare un atto di comunione, di riflessione, senza voler essere didattico, però nelle sue premesse. Il nostro teatro non vuole segnare niente a nessuno, vuole mettere il pubblico di fronte alla storia, farlo molto ridere, farlo molto divertire, farlo emozionare, e poi ognuno prende quello che sente più giusto per lui. Bene. Allora ricordiamo, in occasione del decennale della compagnia, Trilogia Carrozzeria Orfeo, a Roma, Piccolo Eliseo, dal 3 al 27 gennaio,

parlerei di questo personaggio che è questa atleta, Vera Shatlaska, che molti in Italia non sanno chi è, nonostante abbia vinto l'oro olimpico a Roma, poi si è ripetuta a Tokyo 4 anni dopo e a Città del Messico ne ha vinto 4 di medaglie d'oro. È una ginnasta, forse una delle più grandi atlete mai esistite sulla faccia della terra, insomma, che per una sua idea, per la sua dignità, è stata totalmente per un periodo cancellata dalla memoria comune, insomma. Racconto un attimo la storia, così forse si capisce meglio. Praticamente nel 1968 ci sono le Olimpiadi in Messico, lei si sta preparando per andare alle Olimpiadi. In Cecoslovacchia, la sua patria, all'epoca la sua patria, si vive un momento in cui si pensa di potersi distaccare dal pazzo di Varsavia, insomma dalla potenza URSS, no, che la dominava. Fatto sta che nell'agosto 68 i carri armati invadono la Cecoslovacchia, invadono Praga. Viene fatto un manifesto chiamato il manifesto delle 2000 parole, fatto da un giornalista, dove c'è un'idea, un richiamo alla libertà, e lei firma questo manifesto insieme ad altre 200.000 persone. Fatto sta che tutte queste persone vengono ricercate dai servizi segreti e dall'esercito sia cecoslovacco che russo per arrestarli praticamente. Lei fugge in montagna, dove continua ad allenarsi per le Olimpiadi sperando di poterci andare. Fatto sta che la lasciano partire perché chiaramente è la loro atleta più rappresentativa, perché il popolo la ama. Va in Messico, vince 4 medaglie d'oro, praticamente ognuna per ogni disciplina. Solo che nel corpo libero lei vince la medaglia d'oro, acclamata dal pubblico messicano, la federazione sovietica forza la giuria e le danno un pari merito con l'atleta russa. Sul podio, all'inno russo e alla bandiera russa che si alza, lei abbassa lo sguardo e gira la testa. Ci sono video su YouTube se qualcuno è interessato a vedere questo gesto incredibile. Ritorna in Cecoslovacchia, considerando che in quel momento lei era desiderata negli Stati Uniti, la volevano in Italia, cioè era una donna molto bella, molto apprezzata, cioè era veramente una star. La federazione, tramite il governo, le dice: ritira la firma da questo manifesto e chiedi scusa, e poi può andare dove vuoi. E lei dice no. Da quel momento viene cancellata totalmente dalla società, finisce a fare le pulizie per molti anni in uffici, in palestre, eccetera, eccetera, sotto falso nome, pur di mantenere la figlia appena nata. Una vita così fino al 1989, nel momento in cui c'è la rivoluzione di velluto e Havel viene eletto presidente della Repubblica in elezioni democratiche, e lei viene presa come consigliera. Però considerate un arco di così tanti anni, dal 1968 al 1989, di una vita di un atleta che poteva essere veramente la star straordinaria, totalmente cancellata, insomma. Io ho letto di questa persona, sono rimasto colpito soprattutto dal fatto di immaginarmi l'idea di qualcuno che si è trovato a fare le pulizie insieme a questa figura, che fino a qualche anno prima era una star, un mito, no? E magari non l'ha neanche riconosciuta in quel momento in cui faceva le pulizie con lei. Cioè, quindi mi ha colpito tantissimo come si può annientare un essere umano. E la dignità però di questa persona, soprattutto in questo periodo storico, dove per una propria idea, per un proprio senso di libertà, preferisce essere quasi umiliata su tutto, ma non perdere la propria dignità. E questo secondo me è una lezione in questo momento preciso della nostra vita, della nostra società. Secondo me è un messaggio molto importante, cioè ci sono purtroppo pochi esempi. La cosa straordinaria è che ha vissuto esattamente gli stessi anni, è nata lo stesso anno di Mohammed Ali, è morta lo stesso anno di Mohammed Ali, e ha avuto un minimo, una parte di destino simile, no? Che Mohammed Ali aveva rinunciato al titolo mondiale pur di non andare in Vietnam in guerra. solo che Muhammad Ali chiaramente è durata meno la punizione, ha potuto riconquistare il suo titolo mondiale, a lei non gli è stata data l'occasione, insomma. Carlo, lo spettacolo su cosa punta? Allora, lo spettacolo non punta, lo studio di adesso punta sul raccontare la storia di questa donna, partendo però dall'idea che ci sono due donne che stanno facendo le pulizie in questa grande palestra, una di loro è Vera praticamente, ma è sotto falso nome, e quindi gioca sulla sorpresa, sul fatto che questa persona sia comunque oppressa in questa sua vita da chi controlla il loro lavoro, ma anche dalla dignità di questa donna ugualmente, fino a quando l'altra non scopre che è Vera Shahzad, che da lì poi esploderà il discorso di chi è stata questa atleta e questa donna. Mi piace l'idea poi che inizialmente questa figura che sta lavorando insieme a lei non capisca la scelta di Vera Charlaska, cioè non la capisca per niente, cioè addirittura dice per una firma, insomma, sei finita a fare le pulizie, ma chi te l'ha fatto fare, sei pazza, no? Come tutti noi mortali, diciamo così, non capiremo mai una scelta del genere da un punto di vista proprio razionale, ma se ci mettiamo nell'emotività riusciamo forse a apprezzare un gesto che diventa eroico in questo senso. C'è uno spazio web dedicato a questo progetto? Lo stiamo facendo adesso, okay. Siamo in collaborazione con l'Istituto di Cultura Ceco, con l'Ambasciata Ceca, quindi stiamo lavorando alla struttura di tutto ciò che è e deve diventare questo spettacolo, insomma. Iniziamo con uno studio in questo momento perché ci interessava vedere intanto le reazioni del pubblico, la prima parte del testo che noi portiamo, che è compiuta, però che portiamo in scena, per capire anche il lavoro che stiamo facendo, insomma. Dico un attimo anche il cast, perché mi sembra corretto, insomma, gli attori sono Cristina Peditta, Sara Legrucci e Camillo Ventola, ha scritto il testo Alessandra Pernocco e poi io faccio la regia, insomma. Quindi questo è il cast completo. Quale sarà lo spazio a Capranica? Lo spazio a Capranica è il teatro della Via Francigena. Debuttiamo là, facciamo questo inizio, insomma, di questo percorso che spero e credo sarà piuttosto lungo, insomma. Allora ricordiamo lo studio dello spettacolo 2000 parole, la firma di Vera Kaslaska, al Teatro della Via Francigena, Capranica, venerdì 25 gennaio 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Carlo Fineschi. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo e grazie mille, buona serata. Con il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica, anche stavolta per la nostra agenda della settimana teatrale. Ciao Simone. Ciao, buon pomeriggio a tutti quanti. Allora, di un po' di cose abbiamo parlato, già lo sai, e dici un po' il resto. Dunque, io per prima cosa ti porto al Teatro Quarticciolo, perché questa settimana ci sono ben tre spettacoli e te ne vado a parlare. Allora, intanto cominciamo, ovviamente il Teatro Quarticciolo mi parte più facilmente nel weekend, 25-26 gennaio, venerdì e sabato, La sua grande occasione, un testo di un autore molto noto come Alan Bennett, che Alfonso Postiglione porta in scena per interpretazione dell'attrice Bianca Nappi. È un testo anche abbastanza noto in qualche modo, perché insomma, è stato affrontato varie volte. Leslie è una giovane aspirante attrice che in un comico spumeggiante monologo racconta le sue disavventure nel mondo del cinema. Molti pezzi, diciamo, di questo monologo sono stati spesso tratti. Spesso lo utilizzano tanto gli attori anche per fare i provini, che è una cosa, no, dell'attore che racconta delle proprie disavventure all'interno del mondo della recitazione, del cinema, quindi c'è questa sorta di meta, di passaggio all'interno dello stesso mestiere che si sta svolgendo. Quindi 25-26 gennaio, La sua grande occasione, Bianca Nappi, con la regia di Alfonso Postiglione. Andiamo siamo ancora, restiamo al Teatro Biblioteca Corticciolo perché, come abbiamo ricordato parlando con Jacob Olesen per ciò che riguarda primo al Teatro Argentina, che sarà insomma anche quest'anno l'appuntamento con la giornata la giornata della memoria, ma diventa un po' una settimana della memoria, vi vado a dire che 27-28 gennaio il Teatro Biblioteca Corticciolo, in occasione della stessa giornata della memoria, organizza un lavoro firmato da Fabrizio Pallara con la compagnia Mama Roggi, quindi non con la compagnia solita di Fabrizio Pallara, ovvero sia il Teatro delle Apparizioni, ma un lavoro che si chiama Auschwitz, prodotto dal CSS di Udine. Sarà in pomeridiano 27 gennaio alle ore 17 e con due matinée, attenzione, di Teatro Ragazzi, 28 e 29 gennaio alle 9.30 alle 11.30. Si tratta di un lavoro chiaramente che ha a che vedere con i campi di concentramento della località polacca, al tempo però invasa dai tedeschi, che torna ogni anno, diciamo, in ricordo della Shoah. Sono molto curioso dell'idea di poter trarre tutto questo e trasportarlo all'interno di un racconto per ragazzi dagli 8 anni in su, e quindi mi piacerebbe molto andarlo a vedere. 27, 28, 29 gennaio, o in pomeridiano o in matinée per appunto ragazzi. Ancora Teatro Quarticciolo per un lavoro sempre in occasione della rassegna giornata della memoria, e cioè Autobiografia di un picchiatore fascista. Marco Brinzi, alle ore 21 di domenica 27 gennaio, va a dirigere e interpretare questo lavoro, che è ispirato al romanzo di Giulio Salerno, omonimo ed edito da Minimum Fax, ed è la biografia di un fascista, per capire cosa possono muovere oggi le persone, quelle più giovani almeno, ad avvicinarsi a questa ideologia sconfitta dalla storia violenta, antidemocratica, eppure così viva oggi, soprattutto così attiva, soprattutto nel nostro territorio italiano. Quindi il 27, per andare a capire un po' che cosa passa nella testa di chi si avvicini a un'ideologia del genere. Ancora, Federico, ti porto al Teatro Brancaccino per Fame Mia, quasi una biografia. Anna Gaia Marchioro scrive questo testo, lo interpreta, la regia è invece di Serena Sinigaglia. Dal 24 al 27 gennaio, questo lavoro, che è ispirato a Biografia della fame della scrittrice francese e un sacco di altre cose, Amélie Nothomb, edito da Voland, che ci dice: non si sa perché alcuni nascono affamati ed altri sazi, è una lotteria, io ho vinto il primo premio. Ed è appunto un lavoro che ragiona su questa donna che aveva fame, così tanta fame da smettere di mangiare. Ecco, quindi, cioè, metaforicamente la fame è un sentimento universale, qualcosa che è comune a tutti quanti e che però va dall'inedia del non mangiare fino alla buffata del mangiare troppo, e qualcosa che ha a che vedere con la vita degli individui sicuramente è più evidente. Quindi Teatro Brancaccino per Fame Mia, dal 24 al 27 gennaio, con la regia di Serena Sinigaglia. Abbiamo già parlato di Ivan Talarico e Claudio Maricio, oppure Ivan Maricio e Claudio Talarico, secondo, cioè adesso vedremo come si presenteranno in scena, che saranno all'Auditorium con il loro nuovo lavoro, mentre a me non resta, Federico, che portarti, ecco, appunto al Roma Fringe Festival, dove questa settimana potremo vedere ancora degli spettacoli, perché fino al 28 gennaio il festival, ancora oggi e domani, due giorni, per il lavoro Regina Celi di Carolina Balucani con Matteo Sbolacchia, ed è un lavoro che ha vinto il premio Dante Cappelletti, l'ultimo che si è realizzato, ed è un lavoro che ha a che vedere con le tante morti in carcere e soprattutto con le vicende di ragazzi arrestati e finiti chissà come, chissà dove, e non idealmente ma con molta precisione alle vicende molto simili a quelle di Stefano Cucchi. Quindi per questo lavoro, questa sera e domani ancora, nello spazio della Belanda, dove si sta svolgendo il Roma Fringe Festival, segnalo anche questo lavoro di Dario Postiglione e Diego Parlanti, con la regia di Laria Cecere, che si chiama Dopo il Diluvio e proviene da Napoli. Radio Antartide presenta questo lavoro, saranno sempre nel Parco della Belanda, sempre oggi e sempre domani, ma per il invito per il programma, se a vedere il sito romafringefestival.it, e buona fortuna. Perché tornare dopo 20 anni nel posto in cui ci si è spezzata la vita? Ce lo chiede un uomo bizzarro, rigido e nevrotico, misteriosamente sempre in ritardo. È un ex professore universitario che sta tornando nel punto X della sua vita. E questo è quanto ci dice la scheda. Lo andremo a vedere negli spazi della Belanda. Ultimissime cose. Teatro Argosturio, 22-27 gennaio, il ritorno di Giuseppe Tantillo con questo che è stato un testo premiato e molto considerato, che si chiama Best Friend, e presenta questo lavoro con la sua regia e l'interpretazione insieme a Francesco Brandi. Sei il mio migliore amico, Chris e Davi hanno 10 anni e se lo dicono spesso, come fosse un mantra. Quindi affermano continuamente questa dichiarazione di vicinanza. Ma ogni azione poi ha una conseguenza e questa scelta dell'amico del cuore a volte non riesce a stare a contatto con l'evoluzione della vita. E all'Argo Studio, 21-27 gennaio per The Best Friend, mentre al Teatro Torlonia, per vedere 23 e 24 gennaio Love's Kamikaze, questo lavoro sempre all'orbita del Teatro di Roma ormai, diretto da Claudio Boccaccini con Marco Rossetti e Giulia Fiume e appunto il testo di Mario Moretti, siamo a Tel Aviv, oggi con due giovani rappresentanti di due popoli, Naomi, ebrea, e Abdul, palestinese. Cosa cercano di fare per dimenticare questa guerra? Scopriremo al Teatro Torlonia per Love's Kamikaze 23 e 24 di gennaio, mentre al Teatro India 25 e 27 gennaio avremo questo lavoro di Liv Ferracchiati, trilogia sull'identità, capitolo 1, cioè Peter Pan guarda sotto le gonne, 25-27 gennaio al Teatro India. Siamo di fronte a un lavoro che ha a che vedere appunto con l'identità, ma a partire dall'infanzia, l'infanzia di un undicenne degli anni 90 nato in un corpo femminile, osservando come il transgenderismo possa assumere le sembianze della spontaneità e persino della tenerezza. Quindi spettacolo molto interessante sul tema dell'identità, lo andremo a vedere al Teatro India, stesso luogo dove dal 22 al 27 gennaio andremo a vedere La Vinta di Torquato Tasso, diretta da Antonio Ladella, uno dei maggiori registi contemporanei. Si misura con l'opera pastorale Aminta di Torquato Tasso, scritta appunto nel 500 in un periodo di crisi dove l'innovazione linguistica in qualche modo si misura con il classicismo da reinterpretare. Questo è uno dei grandi drammi del Tasso scrittore. Quindi 22-27 gennaio per Aminta al Teatro India. Mentre il Teatro Argentina, lo spettacolo della settimana, Federico, eccolo qui, 23 gennaio, ma fino al 3 di febbraio, La tragedia del Vendicatore, con il testo è di Thomas Middleton, la drammaturgia, la regia di Declan Donnellan, uno dei grandissimi registi del teatro mondiale. Le musiche originali di questa messa in scena sono di Gianluca Misiti, e tra l'altro c'è anche interpretato un brano da Raffaella Misiti, cantante, grande cantante e sorella del compositore. Ovviamente scene e costumi sono di Nick Ormerod, quindi Declan Donnellan e Nick Ormerod fanno compagnia da tantissimi anni. E andremo quindi a vedere questo spettacolo dopo le grandi regie di questa compagnia. Ora ci si misura con un teatro contemporaneo in un tempo di boom economico e bancarotta, dominato da un disagio sociale, destinato a sfociare nella rivoluzione che avrebbe alla fine completamente distrutto il contesto culturale. Dunque, questo è quello che andremo a vedere al Teatro Argentina. Ricordo che giovedì 29, dopodomani, alle ore 17, in Sala Squartina, ci sarà un incontro coordinato da Sergio Logatto, Thomas Middleton, un drammaturgo ritrovato, ed è un incontro appunto con gli attori della compagnia e Daniela Guardamagna, docente di letteratura inglese presso l'Università di Tor Vergata di Roma. E questo, Federico, è tutto. Ciao Simone, alla settimana prossima. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.